lei non c'è, non io c'è mai neutralità. Io in questo momento ho la pressione alta perché sono molto agitata. Perché molto agitata, signora? Che succede? Con chi facciamo questi immigrati? Che cosa dovremmo fare? Dovremmo usare un po' la mano un po' più dura, o sbaglio? No, i tunisini si devono rimpatriare immediatamente perché sono dei delinquenti, i profughi vanno accolti come abbiamo fatto finora. Ah, i tunisini sono delinquenti per definizione, non ho capito, come, sì, proprio come sì. Popolo. No, no, il popolo tunisino, almeno quelli che sono venuti da noi. Quelli che scappano da una guerra sono dei... No, non c'è guerra là, non c'è guerra. In Tunisia non c'è guerra, noi i profughi li abbiamo sempre accolti e continueremo ad accogliere fino brava, a quando... Brava, brava. Ma la gente che scappa dalla povertà. Zitto. Già per la seconda volta hanno dimostrato di essere dei delinquenti, quindi devono tornare a casa immediatamente, senza perdere tempo. Con le buone e con le cattive, chiederò, giusto? Chiederò al governo di chiedere il danno al governo tunisino per quello che hanno fatto a Lampedusa e per quello che continueranno a fare se verranno al nostro paese. Quindi linea dura. Sì. Ma lei sa che il ministro... Zitto. I profughi no, i profughi li accogliamo, sì, come abbiamo sempre fatto, perché non hanno mai creato nessun tipo di problemi. Questi sono delinquenti, è già la seconda volta che hanno appiccato il fuoco e mi hanno fatto aumentare pure la pressione. Quindi basta, non se ne può più. Vanno rimpatriati immediatamente. Ebbene, sta facendo il ministro Maroni con gli accordi che abbiamo fatto in Tunisia, scusi, che ne rimpatriamo 100 al giorno. Senatrice Maraventano, scusi un attimo, ma il rimpatrio, lei dice, sono dei delinquenti, vanno rimpatriati. Ma vanno affrontati... Appena poi vanno rimpatriati, il governo tunisino li deve arrestare immediatamente, perché abbiamo constatato che sono dei delinquenti, perché gli abbiamo salvato il culo a questi signori. Sì. Perché li abbiamo salvati il mare e poi, sì, ci hanno ringraziando appiccando il fuoco. Quindi ma dunque vanno affrontati anche... Perché non solo, sì, non sono pericolosi solo per il nostro, per l'isola di Lampedusa, sono pericolosi per il nostro paese. Sì. Scusi un attimo. Chi ha veramente bisogno, noi siamo pronti, abbiamo salvato ad ospitarlo. Non ho capito. Gli dica a questo signore che non me ne frega di quello che pensa lui, io sto esternando quello che penso io. Se lo vuole accettare bene, se non lo vuole accettare non mi interessa. Parenza, hai capito? Gian Maraventano, in collegamento dall'aeroporto di Palermo, della Lega Nord, vice sindaco di Lampedusa. Senta, ma la questione di Lampedusa, cioè questi tunisini quando appiccano il fuoco vanno affrontati come? Anche con la forza? No, guardi, noi non abbiamo mai affrontato queste persone con la forza. Le nostre forze di polizia, anzi io qualche volta li ho rimproverati perché non hanno mai fatto azioni forti di polizia, ma hanno fatto sempre azioni di protezione civile. Sì. Perché quando... Però quando è troppo è troppo. Quando è troppo è troppo. Ormai hanno superato il limite. E dunque bisogna utilizzare anche la forza, no, in qualche guardi, caso. Guardi, io non mi metto parole in bocca che io... No, non ho detto, è una domanda, è una domanda. Dobbiamo usare azioni giuste per tutti. Stamattina hanno aggredito tutti i lampedusani. Sì, appunto. Stamattina è successo la fine del mondo, hanno ricattato, hanno preso bombole, si sono messi vicino al distributore di benzina, ma scusate, ma dobbiamo farci ammazzare da questi delinquenti? No, e chi dice il contrario? E allora chiudiamo la linea.